I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Visto che la settimana post-pasquale ha preso avvio con un gaudio per quello che riguarda il Ministero del Tesoro, che anche ieri è riuscito a collocare 6 miliardi di bot a 6 mesi con un rendimento ancora più negativo, occupiamoci di un tema che è assolutamente economico, anche se va sotto il nome di demografia. Perché? Perché il rapporto statunitense di ieri, il cosiddetto Aging World, relativo al 2015, fotografa una popolazione anziana globale in continua crescita e dice a una velocità senza precedenti. Nel 2015 l'8,5% di tutti gli abitanti della Terra, stiamo parlando di 620 milioni di persone, aveva più di 65 anni, ma questa percentuale nel 2050 salirà al 17%. Se poi si guarda al dato su chi ha più di 80 anni, in questo momento sono 126 milioni di persone, nel 2050 saranno quasi 500 milioni. Cosa c'entra, direte, la demografia con l'economia? C'entra tantissimo, perché da qui al 2050, ma probabilmente anche molto molto prima, i governi e i cosiddetti policy makers dovranno interrogarsi su come reggere un sistema di previdenza e comunque dei diritti sociali in cui la quota dei non attivi sul lavoro crescerà con una velocità senza precedenti, con conseguenze sia per l'età pensionabile sia per la gestione dei flussi migratori. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. I dati sull'andamento delle pensioni restituiscono sempre uno spaccato dell'Italia che si presta a qualche considerazione. I numeri contenuti nell'osservatorio INPS delle pensioni dicono che l'importo medio degli assegni continua a essere molto basso. Pensate che 2 pensioni su 3 non arrivano a 750 euro al mese. Cresce intanto il numero delle prestazioni assistenziali. Si tratta di pensioni che non hanno origine dal pagamento dei contributi, ma sono erogate dallo Stato per sostenere situazioni di invalidità, situazioni di difficoltà, situazioni di basso reddito, come ad esempio nel caso delle pensioni sociali. Sono quindi pensioni, e stiamo parlando di 4 milioni di assegni, che sono completamente a carico dello Stato e per le quali lo Stato spende circa 20 miliardi all'anno. Poi ancora, al nord ci sono più prestazioni pensionistiche di tipo previdenziali, mentre le prestazioni a contenuto assistenziale hanno un'incidenza maggiore al sud. È una situazione che in qualche modo conosciamo, ma fa sempre impressione scoprire, ad esempio, che la metà circa degli invalidi civili è al sud. Poi un'ultima osservazione che si lega alla riforma Fornero, che è in vigore dal 2012. Gli effetti della riforma sono ben visibili, in primo luogo perché continua a scendere l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL e poi perché aumenta fortemente l'età media dei nuovi pensionati, in particolare di quelli di vecchiaia. Siamo passati dai 62,9 anni al momento del pensionamento del 2010 agli attuali 65,4 anni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.